e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e benvenuti. Naturalmente anche a Cuore Denari seguiremo la cronaca delle ultime ore, infatti c'è una programmazione speciale con i colleghi della redazione che stanno seguendo e ci stanno aggiornando sull'attacco americano in Siria. Eh sì, noi faremo i nostri argomenti, ma naturalmente dando spazio, come giusto che sia, alle finestre informative dei colleghi della redazione di Radio 24. Io vi farò anche un punto sulla reazione di borsa, che tutto sommato è contenuta. Nervi saldi, dicono alcuni colleghi delle agenzie, i listini sono in calo, ma sono in un calo che possiamo considerare fisiologico dopo i rialzi di ieri, anche se le tensioni geopolitiche determinate dalle notizie dell'attacco americano appunto alla Siria hanno messo un po' da parte le attese per il dato più importante che deve arrivare oggi, che è quello sulla disoccupazione americana. C'è stato un ritorno all'insù del prezzo del petrolio, qualche movimento tra le valute, ma tutto sommato reazione di tenuta fra i listini continentali. Vedi, a proposito di reazioni, sì, mi hai dato proprio la parola giusta. Noi vogliamo oggi, insieme ai nostri ascoltatori, all'800240024 aprire proprio i nostri microfoni per raccogliere le nostre emozioni, le nostre reazioni, quelle che abbiamo provato nell'apprendere la notizia di questo attacco, ma io vorrei anche confrontarle con quelle che abbiamo provato nei giorni scorsi leggendo e guardando le immagini dell'attacco chimico in Siria. Ci aiuta il professor Claudio Mencacci, che salutiamo, è tornato a trovarci, grazie professore. Buongiorno a voi. Direttore del Dipartimento di Neuroscienza all'azienda Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. Professor Mencacci, fatti lontani ma che impattano in modo significativo sul nostro equilibrio, sono capaci di farci provare emozioni tra loro anche difficili e discordanti, dall'emozione della paura a quella del timore, ma anche dello sgomento. Professore, è difficile in questi momenti non toccare con mano che anche fatti che avvengono molto a chilometri di distanza da noi impattano sulla nostra quotidianità, sul nostro sentire emotivo, sul nostro equilibrio. Poi il pensiero vaga e fa degli altri agganci, ma professore, partiamo da qui. Beh, si alternano queste immagini orrifiche dei bombardamenti con i gas su bambini, e quindi le percepiamo con quel senso di dramma, di tragedia, di orrore, e contemporaneamente cresce da un lato la preoccupazione, dall'altro la paura. La paura verso una febbre che sentiamo tutti sta salendo nel mondo, perché il senso di solidarietà sociale si è perso, si vedono sempre più uomini soli al comando, e tutto questo accresce questo stato di allerta. Ma se in questo momento l'allerta cresce, io credo che ci sia una vera grande preoccupazione, che è l'altra, è l'assuefazione. Cioè il rischio che noi ci assuefiamo a queste immagini, a queste condizioni, fino a diventare indifferenti. E lo dico con la preoccupazione e con lo sguardo di quando accadde nel secolo scorso. Perché quando tutto questo accade, quando questo grande movimento, la posta dove nulla è più così lontano, nella Siria è molto più vicina e la percepiamo quasi a contatto con quella che è la nostra realtà, il rischio di diventare indifferenti è quello che toglie umanità, e quindi togliendo umanità toglie la possibilità di reagire e anche di proteggere nella maniera migliore le persone che ne sono offese. Allora, per commentarlo insieme a noi, 800240024, stiamo diventando indifferenti, noi che siamo animali sociali e quindi capaci di empatia e compassione, professor Mencacci. Una parole che sembrano un po' stonate oggi. È proprio così, che la forza di questo succedersi di accadimenti è come se questo virus, che in altre occasioni ho chiamato un po' un virus da un lato che ci fa vivere tutto con sospetto e diffidenza, noi come psichiatri lo chiamiamo un po' più della paranoia, e dall'altro che però che ci abitui a queste immagini così orrifiche, così drammatiche, non considerando che le persone che sono colpite sono umani come noi. abbiamo visto che nella storia, quando si perde il riconoscimento dell'umanità, quando, diciamo, da neuroscienziato i neuroni a specchio si rompono e diventiamo aempatici, senza più empatia, possono accadere delle cose veramente drammatiche e terribili. Professore, noi oggi stiamo parlando di emozioni, di sentimenti che stiamo provando, paura, rabbia, impotenza, ma anche sgomento, oppure di questa sorta di, no, silenzio, perché proprio siamo stati troppo sollecitati quando l'allarme della macchina parcheggiato sotto casa nostra suona per minuti, minuti e minuti, alla fine noi ci disattiviamo, non lo sentiamo più, e su questo dobbiamo riflettere. Ma oggi vogliamo anche riflettere su una giornata, la Giornata Mondiale della Salute, che si celebra proprio oggi e ha come tema la depressione. È un'occasione per sensibilizzare le persone a parlarne. Let's talk, ovvero depressione, parliamone. E questo è il messaggio della giornata, che noi raccogliamo volentieri e di cui discutiamo anche oggi, in questa giornata in cui i fatti, no, ci in qualche modo destabilizzano. È un invito che suona semplice, ma che così semplice non è, perché trovare le parole giuste, evitare i luoghi comuni, le frasi fatte, i pregiudizi non è cosa da poco, ma noi ci proveremo, naturalmente anche con il vostro aiuto. Potete intervenire all'800 24 00 24 per parlare del nostro sentire emotivo, ma anche per parlare di depressione. È una parola che è sulla bocca di tutti, che noi la usiamo in modo non adeguato, per come sinonimo di alcune situazioni, un cattivo umore, un periodo storto, sono depresso, sono stanco, vedo nero. In realtà non è questa la depressione, bisognerebbe cercare di capire e comprenderla. La Giornata Mondiale della Salute va proprio in questa direzione, perché di questa parola poi forse la ripetiamo così tanto, la usiamo nella nostra quotidianità, perché di questa parola abbiamo paura. Sappiamo che c'è ancora uno stigma e spesso le persone hanno paura a chiedere aiuto. Professor Mencacci, lei oggi ci aiuterà, perché possiamo iniziare a dire che non è una tristezza prolungata, una malinconia o quella strana sensazione di insicurezza e di inadeguatezza che possiamo sperimentare in alcune situazioni, né l'umore grigio che tende al nero, né questa sfiducia anche nei nostri simili. Professor Mencacci. Ma è proprio così, ha usato le parole giuste. La depressione non è la demoralizzazione che conosciamo tutti, non è la tristezza. Ce ne sono tanti tipi, con tante cause, sia biologiche che psicologiche che sociali, ognuna è differente, quindi vanno riconosciute, e non è causata da un solo evento. Ma come tutte le cose, quando si rompe l'equilibrio tra fattori che ci proteggono e fattori invece che ci espongono a dei rischi. Sta di fatto che se demoralizzazione e tristezza la sperimentiamo tutti, la depressione vuol dire che quando per intensità il calo dell'umore e per durata nel tempo alcune settimane si impone su tutta la persona, togliendogli la spinta, il desiderio, gli interessi per le cose che normalmente faceva, bene, lì incominciamo a parlare di una forma di depressione di cui andranno valutate poi la gravità, se lieve, moderata o grave. Spesso abbiamo paura a parlarne, spesso lo facciamo anche se siamo familiari di quella persona che sta vivendo sulla propria pelle questa condizione. Per questo io vi chiedo 800 24 00 24, se state vivendo una situazione analoga, chiamateci, chiedeteci aiuto. Il professor Mencacci vi darà delle indicazioni, perché anche la famiglia, i colleghi, gli amici possono aiutare la persona che sta convivendo e nascondendo la sua depressione a uscire da questo tunnel. Una cosa è certa, professor Mencacci, nel prossimo futuro, nel 2030 per l'esattezza, la depressione dopo le malattie cardiovascolari sarà, secondo le stime, la patologia responsabile della perdita del più elevato numero di anni di vita attiva e di buona salute. Una previsione che fa i conti anche con gli effetti, l'abbiamo detto tante volte anche qui a Cuore Denari, della crisi economica, fa i conti con l'ansia, la preoccupazione del futuro, con la fragilità, col senso di adeguatezza, che stanno diventando sempre più diffusi tra i giovani e i meno giovani. Professore. Proprio così, è proprio questa sua prevalenza dal 4, oltre il 4 al 7% della popolazione, quindi calcoliamo in Italia circa 4 milioni di persone tra cui la maggioranza donne rispetto agli uomini, ma soprattutto ci dice una cosa, che quando la depressione è nella sua forma grave è la malattia che comporta la peggiore qualità di vita e anche comporta una netta riduzione della quantità di vita, cioè di minore spazio per poter vivere, e nel contempo il fatto che questa crescita comporta dei danni economici alle persone, alle famiglie immensi. Si pensi che si calcola oggi che dovremmo investire proprio in salute mentale, soprattutto sulla depressione, perché apposta siamo a cuore i denari, un dollaro investito in questo settore porta a benefici in termini poi lavorativi e sociali di 4 dollari, quindi un incredibile investimento che purtroppo dico, non viene ancora fatta, perché la depressione, per quanto tanti ne parlano, ancora pochissimi, noi consideriamo solamente un terzo, si avvicina alle cure e poi soprattutto si fa curare in maniera adeguata. Ci fermiamo subito dopo le informazioni sul traffico, riprendiamo a parlarne. 800 24 00 24, stanno già arrivando le vostre telefonate. Parleremo di donne, parleremo di anziani, ma anche di bambini. I bambini che subiscono delle violenze, degli abusi, saranno con grande probabilità degli adulti che si confronteranno con questo problema. Cercheremo anche di chiedere al professor Mencacci di aiutarci. Ci sono delle persone più a rischio, delle segnali anticipatori, ma soprattutto che cosa si può fare per uscire da questa situazione, per curare questa malattia, perché di malattia stiamo parlando. A tra poco. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Cuore e Denari. Tutti noi ci possiamo sentire tristi, a volte anche molto tristi. Oggi, molto probabilmente a seguito di queste notizie, siamo venuti al lavoro con un'emozione, con delle emozioni tra loro contrastanti. Sì, come dire, chissà che cosa ci aspetta in questa giornata poi. E però il professor Mencacci, che abbiamo il piacere di avere in linea con noi, ci aiutava a fare un'altra riflessione. Stiamo diventando indifferenti? Oggi noi vogliamo parlare di un disturbo, di una malattia, chiamiamola, professor Mencacci, perché si tratta di malattia, su cui ci sono pochi investimenti, c'è ancora poca conoscenza e spesso le persone che ne soffrono non hanno gli strumenti per uscirne, per un problema culturale, per un problema di informazione e anche forse di gestione, di opportunità di servizi. Arrivano tante telefonate, il professor Mencacci lo sa, quando il professore e noi apriamo i microfoni di Radio 24 e affrontiamo questo tema che è un po' delicato, perché è molto intimo, tocca la vita della nostra famiglia, perché dietro ad una persona che soffre ci sono, a fianco di una persona che soffre ci sono i suoi familiari, i suoi amici, i suoi colleghi, arrivano tantissime testimonianze. E voglio leggermi, prima di dare la parola a Michelangelo che ci chiama dalla provincia di Bari. Sono costretta a nasconderla, professor Mencacci. Mi hanno visto sempre come un uomo forte. Per uscirne impegno il cervello al massimo per non pensare a farmi del male. Vi posso confermare che è dura resistere. Allora, è un messaggio, professor Mencacci, questo che ci porta a dare dei consigli ai nostri ascoltatori, perché molte persone cercano di resistere alla depressione. È una cosa strana. Noi non resistiamo al mal di testa, al male al ginocchio, al raffreddore, al mal di gola. Alla depressione cerchiamo di resistere, cerchiamo di nasconderla perché non vogliamo che gli altri la sappiano, per non preoccupare talvolta anche le persone che ci amano. Solo per non preoccupare, questo è vero, ma soprattutto perché ci si vergogna, si confonde una malattia con una valutazione anche di carattere morale, e la persona che è depressa purtroppo sperimenta un progressivo senso di inadeguatezza, un senso di colpa per essere in quel modo, sentimenti anche che tutto vada in rovina, e cerca in maniera sempre disfunzionale di trovare delle soluzioni, non avendo la possibilità di curarsi, di riconoscere che proprio durante la depressione le nostre capacità cognitive, cioè la capacità di avere attenzione, concentrazione e di saper fare delle scelte, sono tra i sintomi più frequenti che non vengono riconosciute, per cui la persona si troverà ancor più indecisa, si troverà ancor più incapace di vedere via di uscita, ma purtroppo quello che poi si insinua è l'idea che non ci si possa fare niente, che non ci si possa curare. Quindi il messaggio è andare oltre questa vergogna, riconoscere che è una malattia, confidarsi con i propri familiari per accettare l'aiuto. Molti familiari purtroppo a loro volta soffrono, noi consideriamo oltre il 60% dei familiari che si chiudono in se stessi, riducono le relazioni sociali della loro famiglia, hanno meno contatti, quindi è un qualcosa diventa che una malattia della famiglia. Allora diventa una malattia della famiglia. Allora, del contesto. Abbiamo detto, ne soffrono, una malattia tristemente democratica, ne soffrono uomini, donne, giovani e anziani. Voglio leggere una lettera di una nostra ascoltatrice, perché a lei e alle nostre amiche voglio dare un'indicazione. Ne soffro da quasi un anno, 48 anni, sono in menopausa da quasi 3 anni. Ho cominciato a piangere per tutto, poi ad avere paura di uscire di casa dopo 2 giorni in casa, e da poco mi sono sentita soffocare in un autobus poco affollato. Mi hanno detto che questo è già panico, quindi la mia domanda è: cosa posso fare? È necessario utilizzare farmaci o c'è un'altra alternativa? Allora, professor Mencacci, prima di chiederle di rispondere alla nostra ascoltatrice, perché la depressione nelle donne forse si configura con dei profili magari un po' più particolari, differenti rispetto a quella degli uomini, io voglio ricordare una bellissima iniziativa di Onda, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, che riguarda proprio la salute delle donne, perché dal 18 al 24 aprile le donne con problemi di depressione potranno fare delle visite, dei colloqui, recarsi agli sportelli di ascolto in 152 ospedali italiani, quelli del bollino rosa. Allora, per saperne di più, perché poi queste iniziative continueranno in occasione della giornata della salute della donna con altre possibilità anche di screening e di visite, vi mettiamo sulla nostra pagina il link al sito. Intanto, professore, alla nostra amica che cosa possiamo rispondere? Alla nostra amica dobbiamo rispondere che la prima cosa è chieda una valida visita da uno psichiatra, perché ha molti fattori di rischio, prima di tutto essere in area del climaterio, della menopausa, ha già sintomi che spesso compaiono nel genere femminile, che è quello di avere un'ansia molto intensa che può diventare panico. Terzo, questa progressiva chiusura, isolamento rispetto all'ambiente esterno. Quindi non necessariamente il trattamento deve essere quello farmacologico. Noi sappiamo che per le forme sotto soglia e lievi anche i trattamenti psicoterapici, soprattutto di tipo cognitivo, hanno un'efficacia molto valida quanto i farmaci. E successivamente ci può essere anche la necessità dell'utilizzo di farmaci a secondo il tipo di gravità e i sintomi che ci sono. Ma quindi non è che tutti i trattamenti sono allo stesso modo, ci sono tantissime cure che vanno sapientemente combinate tra di loro, integrate in maniera contemporanea o sequenziale. Michelangelo, buongiorno, l'ho fatta attendere prima del nostro GR. Buongiorno a voi, nessun buongiorno. Problema assolutamente. Grazie. Sì? Dunque, sì, la mia esperienza, il mio contributo, mi trovavo ad ascoltarvi, quindi vi ho chiamato perché preso dalla tematica. Io in sintesi ho una laurea in filosofia e un master in bioetica, quindi in qualche modo umilmente i mezzi per conoscere quali sono le peculiarità della mente, i problemi che può avere la psiche. Però mi ritrovo oggi a 36 anni a riconoscere di avere uno stato che immagino di depressione o vicino alla depressione. Allora, Michelangelo, si fermi qui, viene con noi a sentire il GR, ritorniamo insieme a lei e al professor Mencacci ai vostri interventi. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino, a Vinitaly Padiglione 3, trentodoc.com. State ascoltando un programma offerto da Danacol, grazie agli steroli vegetali, riduce il colesterolo fino al 10% in 3 settimane. cuore e denari. Siamo tornati insieme. Let's talk. Depressione, parliamone. Questo è il messaggio della Giornata Mondiale della Salute che si celebra oggi e ha proprio come tema la depressione. Una malattia, chiamiamola in modo corretto, non è una debolezza, non basta farsi forza, è una malattia che si insinua nella nostra vita, la cambia, la rende difficile, faticosa. In Europa a soffrirne sono 40 milioni di persone, 4 milioni solo in Italia. Quindi oggi abbiamo l'opportunità di confrontarci con il professor Mencacci, ma anche di tirare fuori le nostre paure, i nostri dubbi, le nostre domande. Prima delle informazioni del nostro GR, il nostro ascoltatore ci ha chiamato, professor Mencacci, un ascoltatore che ha tutte le competenze per conoscere la mente, infatti è uno studioso, ma dice sono in questo momento, probabilmente ho alcuni segnali, sintomi di depressione. Alcune ricerche sottolineano che il livello culturale svolga una sorta di effetto di protezione nei confronti di questa malattia, ma evidentemente, come abbiamo detto in anticipo, la depressione può colpire chiunque, è tristemente democratica. Professore, che cosa deve fare una persona che pensa di avvertire nella sua quotidianità dei cambiamenti che possono fargli pensare di essere malato di depressione? Beh, ci sono due cose. Uno è, come dire, i campanelli d'allarme, che sono sempre la perdita di interesse o di piacere per le cose normali, e poi gli aspetti di perdere la capacità di trovare soluzione alle proprie problematiche, quindi anche delle difficoltà serie lavorativamente. Dall'altro dobbiamo tenere sempre conto da un lato della familiarità. La depressione ha una componente di genetica importante, che sappiamo che persone geneticamente più vulnerabili di fronte agli stessi eventi, vuoi di perdita, vuoi di separazione, vuoi di conflitti, hanno maggiore facilità a sviluppare un episodio depressivo rispetto ad altri che hanno una maggiore resistenza. E questo. In più, quello che va valutato è se la persona attraversa un momento in cui è emotivamente più vulnerabile o più fragile, come può essere nella vita di una relazione di coppia difficile o per altre condizioni di separazione. Ma questa complessa valutazione, che è un insieme di fattori di rischio e di fattori anche di vulnerabilità, va fatta esaminare fondamentalmente allo specialista, che è lo psichiatra. Una figura che ci fa molta paura, perché psichiatra ancora nell'immaginario collettivo è una persona che è il medico del cervello, così viene definito, della mente, quindi ammettere di doversi rivolgere ad un medico di questo tipo per molte persone è qualcosa di difficile da superare. Al tempo stesso, professor Mencacci, mi arrivano dei messaggi curiosi, tipo come direbbe mio nonno, è la malattia di chi ha la pancia piena. Ancora una volta si confonde la malattia con una debolezza, e questo l'abbiamo ripetuto più volte, non è questa. Oppure persone che dicono: sì, ma io sono depresso, ma dove vado a curarmi? È la malattia dei ricchi. Per essere curati e presi in carico bisogna sborsare tanti soldi, se no le liste d'attesa sono molto lunghe. Allora, professore, lei lavora al Fate Bene Fratelli Sacco di Milano, è direttore del Dipartimento di Neuroscienze. Che quali consigli può dare, indicazioni alle persone che mi scrivono dicendo che non mi posso fare curare perché non ho i soldi per farlo? Beh, questo diciamo che fa parte anche di una visione che è legata al pessimismo di chi soffre di depressione, ma abbiamo un fronte sul quale stiamo lavorando molto, che è quello della medicina generale, quindi in ogni caso rivolgersi al proprio medico di medicina generale, che può essere competente sicuramente nelle forme subcliniche lievi, accettare l'invito a consultare quello che è il professionista principe per il trattamento della depressione, che è lo psichiatra. Analogamente vi sono ovviamente psicologi e psicoterapeuti e colleghi medici neurologi che hanno delle competenze, ma lo specialista di base è lo psichiatra. In tutte le strutture fate bene, Fratelli Sacco, ci sono centri sovraspecialistici proprio dedicati al trattamento sia della depressione nei cicli vitali della donna, quindi nel periodo perinatale e periclimaterio, sia dedicati anche alle forme di depressione più difficili da trattare, proprio perché sono super specialistici, e spesso questi centri si può trovare anche con liste d'attesa, visto che accolgono popolazioni che vengono non solo dalla regione ma anche da altre aree d'Italia. Ma il punto fondamentale è rivolgersi ai propri familiari, cercare il loro aiuto, farsi supportare nelle cure a partire dal proprio medico di medicina generale. Ci sono tante cure, bisogna esserne informati, e in questo parliamone. E non cediamo a questa convinzione che un luogo comune che sia o una cosa banale, è un niente, o una cosa sociale. Non è vero, sono decisamente anche più esposte chi ha condizioni socio-economiche più instabili o una scolarità più bassa, ma soprattutto accettiamo di riconoscere un qualcosa che modifica sistematicamente il nostro organismo, dal cervello al cuore, alla sua immunità e al suo apparato endocrinologico. Quindi non stiamo parlando di fisime o di piccole demoralizzazioni, ma stiamo parlando di una malattia che oggi sappiamo addirittura possa anticipare di patologie come il diabete, come disturbi cardiovascolari e anche dei decadimenti cognitivi. Quindi, senza creare allarmismo, però è curiamoci. Curiamoci, perché è una malattia che fa ammalare. Maria Rosa, per chiudere, da Milano, la risposta alla sua domanda l'ha già anticipata il professor Mencacci, ma l'abbiamo fatta attendere. Maria Rosa. Allora dico solo una cosa, io penso di avere latente da anni una forma di depressione. Per quanto mi riguarda direi che la depressione non è la malattia di chi ha la pancia piena, a volte è di chi ha la gerla vuota, cioè a me è sempre parso di avere un senso di mancanza da tempo immemorabile. Ho provato delle terapie farmacologiche, non le sopporto, adesso riproverò quello che è un contatto di tipo cognitivo. Avrei chiesto al professor Mencacci, che saluto, l'ho conosciuto tanti anni fa, quali altre sostanze possono aiutare? Professor Mencacci, l'elenco sarebbe lungo e poi le persone però, sono... Grazie. Però due cose, stili di vita, attività fisica sicuramente. Un'attenzione alimentare, fin qui diciamo delle cose di buon senso, e poi mantenere il più possibile una vita sociale. Noi siamo un gruppo sociale, dobbiamo vivere degli stimoli e delle interazioni con altri. Purtroppo quando si è così ci si isola e così si perde tutto. Grazie professor Mencacci per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata. Grazie anche a voi, a alla prossima. Allora, andiamo avanti con Cuore Denari, anche con le tradizionali tematiche appunto di denari, in una giornata che comunque ha dei contorni un po' complessi. Abbiamo in mattinata, lo avete sentito, ribaltato un po' il nostro palinsesto per dare spazio alle notizie di carattere internazionale che sono arrivate appunto dalla Siria con l'attacco americano, e però chiaramente riportiamoci anche, Nicoletta, come abbiamo fatto dall'inizio del nostro programma, alla normalità. Allora, in primo luogo sicuramente guardiamo un po' quello che succede in borsa dopo a queste notizie. La notizia degli attacchi in Siria, allora, intanto sicuramente sta spingendo al rialzo la volatilità tra i mercati, concentrata soprattutto sul mercato valutario. Gli investitori si stanno interrogando in particolar modo sui rapporti fra Stati Uniti e Russia, che potrebbero diventare sempre più tesi. Putin ha già condannato la mossa americana, ma in ogni caso questo forse è il fronte più problematico di tutti gli altri. Poi abbiamo fatto anche una valutazione rispetto all'andamento delle materie prime, oltre che delle valute, dopo le notizie appunto della notte, e abbiamo notato questo rialzo del prezzo del petrolio, che è andato oltre $55.50 a Londra, oltre 52 appunto a New York. Per quello che riguarda il mercato azionario, il quadro è negativo, ma tutto sommato, come sottolineano molti operatori, c'è una situazione di tenuta, nervi saldi. C'è un calo particolarmente rilevante rispetto agli altri di Francoforte, che perde 0.5 punto, gli altri indici perdono molto meno: Parigi meno 0,32%, Londra meno 0,10%, Milano meno 0,25%. I titoli che stamattina crescono di più a Piazza Affari: STM, ST Microelectronics più 1,33%, Mediobanca più 1,10%, Azimut reduce da un paio di giornate difficili, oggi recupera un punto, A2A più 0,7%, poi sono su i titoli proprio legati al comparto energetico: Prysmian più 0,5%, Eni più 0,07%, ma neanche tantissimo. In calo invece abbiamo, con ribassi di oltre un punto e mezzo, Unipol, Salvatore Ferragamo e Mediaset. Quindi il tema è che la crisi tra Stati Uniti e Siria non impatta al momento più di tanto sui mercati, gli operatori rimangono ancora in attesa, diciamo ritornano a mantenere la loro attesa sull'appuntamento più importante della giornata, che è di natura macroeconomica ed è il dato americano sul mercato del lavoro di marzo, che verrà pubblicato nel primo pomeriggio. Per quello che riguarda invece l'approfondimento di denari, oggi torniamo un po' su quello che abbiamo ribattezzato il nostro passatempo / investimento preferito: prenderci cura della nostra casa. Dall'acquistarla, arredarla, mantenerla, ristrutturarla, noi dedichiamo tante risorse economiche e anche mentali alle quattro mura in cui passiamo gran parte della nostra vita, la nostra e quella della nostra famiglia. Ed è la settimana giusta per tornare su questo argomento, perché qui a Milano, Nicoletta, è tutto un fermento, no? Bellissimo. E noi ci siamo fatti il nostro giretto ieri sera. Dobbiamo confessarlo. Con grande soddisfazione. È vero. Milano vivacissima, negozi tutti aperti, showroom del settore dell'arredamento appunto aperti fino a tarda notte, fino a tarda serata. C'è il Salone del Mobile, appunto, con tutte le novità nel settore dell'arredo design, che come sapete rappresenta un fiore all'occhiello del Made in Italy italiano. Allora, noi un mesetto fa abbiamo pensato di lanciare questa nuova iniziativa per tutti i nostri amici appassionati di casa, arredamento, ristrutturazioni, design, che più ne ha più ne metta, dedicando loro proprio un approfondimento che proveremo a far diventare periodico, in cui analizzare la nostra idea di casa perlustrandone tutti gli angoli e carpire magari dai professionisti tutti i suggerimenti pratici, utili ed economici per intervenire con piccoli o grandi lavori. La radio è di casa. Ci accompagna in questo progetto un architetto, Rita Campana, che salutiamo perché eccezionalmente dal bolognese oggi ci ha raggiunto qui negli studi di Milano. Non poteva certo mancare al Salone del Mobile. Certo, buongiorno, quindi, buongiorno a tutti. Insomma, la trasferta, ha preso due piccioni con una fata. Esatto, la trasferta non l'ha fatta solo per noi. Però insomma, noi siamo abituati d'altronde a sentirla live, perché di solito la raggiungiamo noi al Cersaie di Bologna. Invece, in questo caso, questa volta, Maometto è venuto alla montagna, mentre negli altri casi abbiamo la montagna della radio che si sposta appunto dall'altra parte. Allora, nella prima puntata che abbiamo fatto l'altra volta, Nicoletta, ti ricordi, ci siamo occupati di cucina. L'ambiente che abbiamo scelto oggi invece è la zona giorno. Oggi lo chiamano il living. È più internazionale. Sì, esatto. È la sala, praticamente. Sì, la vogliamo proprio banalizzare. Sala di una volta. Esatto. Allora, prima di entrare nelle sale dei nostri amici, nella zona living, nelle zone giorno dei nostri amici, volevo anche ricordare, per chi l'avesse persa in questi giorni dai giornali, di questa che abbiamo ribattezzato un po' la querelle del design del momento, no? Riguarda un pezzo assolutamente irrinunciabile per la zona giorno, la poltrona. Certo. E c'è questa disputa legale molto forte fra due big dell'arredo Made in Italy, Molteni e Cassina, che ha già fatto muovere il Tribunale di Milano, che riguarda questa poltrona famosissima disegnata dal maestro Gio Ponti e per la quale entrambe rivendicano la titolarità di licenza. Noi staremo a vedere come finisce in termini di aggiudicazione dei diritti di esclusiva e sfruttamento dell'opera appunto realizzata dal grande designer italiano. Pensate che il primo disegno risale al 1953 e la prima denominazione data a questa poltrona, che poi è mantenuta, era poltrona 811. Architetto Campana, dico tutto correttamente? Certo. Lei che è di storia dei design sicuramente ha più informazioni di me. Pare in realtà che la querelle sia anche sul nome. Ecco. Pare che sia anche sul nome. Molteni ne assegna uno, Cassina un altro, quindi vedremo un po' chi vince. Chi riuscirà, insomma, questo per a dire capire quanto è un pezzo. Io tra l'altro ieri sera, passando davanti ad uno showroom di uno dei due marchi, l'ho vista, quindi è me la tengono ancora, certo. E l'ho disegnata e mi sono detta chissà se si sta comodi su quella poltrona, sì, architetto, sì, Campana. Sì, sì, comoda e comoda, poi bisogna capire chi dei due riuscirà e chi ce l'avrà dei nostri ascoltatori magari a casa. Dici? 800 24 00 24. Brava. Ma direi mandateci una foto via WhatsApp della vostra poltrona, sì, che esatto. Se non è quella di Giopponi, quanto costa quel pezzo di design? Ce l'abbiamo un'idea? No, a dire la verità vado a vedere... non ancora, non so di preciso cosa, che però magari... secondo me costa un botto, sì, dai. Sì. La sdraietta, quella da campeggio, sembra un pochino quella anche da mare, no? Però insomma, porta la poesia al mare, facciamo corrodere dalla salsedine, poi direi l'investimento. No. Comunque, se ce l'avete, fotografatela, esatto, e mandatecela. Ma oltre a fotografarci la poltrona di Gioponti, oggetto della disputa fra Molteni e Cassina, fateci una bella fotografia della vostra zona living, del vostro appartamento. Se siete a casa stamattina e l'avete appena riordinata dopo una serata magari movimentata a casa vostra, se volete mandateci la foto, appunto, così magari vi rubiamo anche qualche idea, certo, del vostro arredamento. L'angolo preferito, il pezzo più bello con cui l'avete arredata, oppure vi sembra spoglia e ancora poco personalizzata e avete bisogno di qualche consiglio, noi siamo qua all'800 24 00 24. Allora, architetto Campana, dicevo prima scherzandoci, la chiamano zona giorno, living, e le nostre mamme la chiamano ancora la sala, oppure parliamo di concetti e ambienti diversi in realtà, sala, living e zona giorno? Allora, l'ambiente è sempre lo stesso, che sia la sala, che sia zona giorno, che sia living, è sempre quello. C'è naturalmente una differenza che dipende in parte dalle tecnologie di oggi, perché naturalmente tra maxi schermi, domotica, sistemi audio integrati, cioè quindi c'è tutto un reparto di tecnologia che una volta nelle sale delle nostre prima mamme, prima si pensa nonne, wifi, esatto, alla dimensione della televisione e del televisore, poi attorno si costruisce tutto l'arredamento, sì, della zona living, sì. Quindi la tecnologia ha influito moltissimo. Dall'altra parte poi c'è anche una versatilità in più degli ambienti di oggi. Se pensiamo ad esempio ad abitazioni abbastanza piccole come bilocali, in cui il soggiorno, la zona giorno, diventa anche magari la stanza degli ospiti, l'angolo studio, ah, sì, quindi diciamo, certo, che è diventata anche molto più versatile in questo periodo rispetto a quella che era una volta la sala delle nostre nonne, delle nostre, allora, mamme. Cominci subito a fare l'architetto pronto a dare suggerimenti, sì, ai nostri ascoltatori. Quali sono i dilemmi più diffusi di una persona, di una famiglia davanti ad una stanza che deve diventare il living, il luogo per definizione del riposo, del relax e della convivialità familiare con gli amici? Allora, consideriamo intanto che nella zona giorno è uno degli ambienti maggiormente vissuti, come dicevamo anche della cucina, poi di cui abbiamo parlato appunto la volta scorsa, perché nella zona giorno è, come dicevamo, ci si rilassa, si mangia, quando c'è il tavolo naturalmente, si legge, si accolgono gli ospiti, amici, esatto, quindi è una stanza delle molteplici funzioni, e avere tante funzioni da dover inserire, tante possibilità di disposizioni, crea ancora più ardua quella scelta, certo, di come disporre effettivamente l'arredo. Quindi in effetti i dubbi che mi vengono posti un po' più spesso sono: dove metto il televisore, come scelgo il divano, dove posiziono il tavolo. E a meno che la stanza in questione non abbia dei vincoli specifici, come ad esempio possono essere delle ampie porte finestre che quindi ci costringono a disporre l'arredo in un certo modo, avere tutta questa possibilità di scegliere su come disporre i vari pezzi crea ancora più confusione, effettivamente. È qui che ci vuole l'occhio esperto, sì, dell'architetto, anche per darci, come dire, l'idea giusta in relazione all'illuminazione, certo, della stanza, esatto, quella naturale, dove sono posizionate le finestre. Poi io immagino sempre, ovviamente ricordando anche le idee assurde che avevo io quando ristrutturavo la mia, l'architetto, sì, che mi rimetteva sempre in riga, pur avendo una casa non tanto grande. Allora, 800 24 00 24, raccontateci se volete com'è la vostra idea di zona giorno, ma magari quanto è difficile realizzare la vostra idea perché avete un ambiente di un certo tipo e quindi non riuscite a mettere in pratica tutte le vostre magari così scelte di design. E non solo, siamo qua a vostra disposizione. Avete visitato il Salone del Mobile in questi giorni, che cos'è che le è piaciuto di più per quello che ha visto fino adesso? Perché oggi è a Milano, ma sì, c'è già sarò stato... oggi, ci sarò domani, perché purtroppo è stata una settimana impegnativa. Ah, ecco. Ah, vuole quindi... andare a vedere qualcosa di preciso o vedere tutta la manifestazione a Rofiera, così tutta è un po' difficile, ecco, perché è veramente talmente quindi vasta, va a colpo sicuro? Sì, mi dirigerò in parte all'interno del salone, in parte all'interno a fuori salone, perché anche quello è un evento veramente importantissimo in questo periodo. C'è una mostra interessante che si chiama Space and Interiors, che è in particolare dedicata agli architetti anche e ai professionisti del settore, dove si vedranno anche materiali, nuovi materiali, esatto, nuove concezioni interessanti. Perché e diciamo, la grande evoluzione si gioca anche su quel terreno da qualche tempo a questa parte, ed è un tema molto ovviamente speciale soprattutto per i professionisti, per gli architetti, ma naturalmente vale la pena anche per gli ascoltatori dare qualche indicazione su questo. Vado di nuovo a raccontare la borsa, poi ritorniamo nelle nostre case, nelle vostre case, a tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Danacol. Grazie agli steroli vegetali riduce il colesterolo fino al 10% in 3 settimane. Cuore e denari. Take me back, I've been away too long. Take me back to my home sweet home. La radio è di casa. Ed eccoci ritrovati in diretta a Cuore e Denari. Oggi abbiamo riproposto ai nostri ascoltatori una rubrica che abbiamo inaugurato da poco, la radio è di casa, e naturalmente non potevamo che farlo in questa settimana in cui Milano è animata dal Salone del Mobile, mentre la settimana prossima ci sarà il Salone del Risparmio. Ormai ce n'è uno a settimana, qua abbiamo un sacco di impegni, di no, salone, salone, parliamo di sala, ecco, di living peraltro. Già un ascoltatore ci ha contestato, basta con queste parole in inglese, infatti le abbiamo detto insomma che è la sala, la zona giorno. Esatto, quella lei. Dove naturalmente così trascorriamo con i nostri amici, la nostra famiglia, i nostri momenti di relax. Il tema è però come la si arreda, facendo combinare ovviamente correttamente le esigenze dello spazio, dell'ambiente, con quelle anche del portafoglio, no? Certo. Architetto Campana, mi sa che quando lei chiacchiera con i suoi clienti il primo punto da mettere in chiaro è questa. Esatto, il mio budget è questo, poi vediamo un po', poi dove metto il televisore, prima, seconda cosa, terza, adesso puoi dedicarti anche al resto. E lo spazio che non basta mai. Figuriamoci, basta che siamo i due in casa. C'è una bella foto, che non possiamo farla vedere ai nostri ascoltatori? Ci sono delle foto, io le ho guardate un po' tutte, molte, molto belle, bellissime, e soprattutto una foto, un living, una sala che mi piace molto, è quella di Alessandra che ci ha mandato da Pescara, è una sala piena di piante, piena di luce, molto chiara. Benissimo. Mi piace molto. Allora, dicevamo prima che i punti fondamentali da tenere in considerazione quando cominciamo a pensare a come organizzare la nostra zona giorno è il posizionamento degli arredi, architetto Campana, partendo dal televisore, ma l'altro focus importante magari va fatto attorno al tavolo da pranzo, forse a seconda di dove viene disposto quello, poi si può organizzare tutto il resto, credo almeno, mi dica lei se tecnicamente ho fatto il percorso giusto. Certo, bisogna capire e impostare inizialmente dove disporre le due aree principali, quindi zona giorno intesa come salotto, divano, relax, TV, e area pranzo. Quindi una volta definito questi due aspetti possiamo andare a capire come organizzarli separatamente, però è importante scegliere dove disporre le due aree. Naturalmente la zona pranzo normalmente è meglio affiancarla a fonti luminose naturali, quindi vicino a finestre. Allora ho fatto giusto. E la zona divani invece in un'area un pochino più contenuta a livello di luminosità, sempre per un discorso di relax, naturalmente di buona visione del televisore. A casa mia è piccola, invece io ho la porta finestra del balcone quasi attaccata al divano, vedi, purtroppo ho dovuto agire così. Come dicevamo, quando ci sono determinati vincoli, bisogna fare di necessità. Le manderò la foto, architetto. Volentieri. Per capire, vorrei che mandassi anche la storia del nostro limone. Ah, perché non ho aggiornato peraltro. No, però... perché io avevo lanciato questa sfida, avevo così manifestato il mio desiderio di comprarmi la pianta di limone, perché pur non essendo una grandissima consumatrice mi piace moltissimo la pianta colorata con tutti questi frutti, quindi e arreda anche. Assolutamente. La prima pianta del mio piccolo balconcino. Che cosa è successo? Che ovviamente andando a caccia di prezzi dico vado, non vado, si è presentata Nicoletta e che è andata dal vivaio e me l'ha regalata. Sta benissimo. E guarda, è molto felice. È nel balcone della tua sala? Sì, certo. E allora, vedi che sala luminosa, è bella. Sì. Certamente, proprio lì, anche perché quella è la mia casa, è quella che... Sentiamo un ascoltatore che ci chiede un suggerimento sul suo living. Massimiliano dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io più che un suggerimento vi chiedo quasi un miracolo, nel senso che io ho la fortuna di avere una casa abbastanza grande, ma siamo anche in tanti ad occuparla perché siamo in 7. E sono, come dire, grazie al cielo c'è una stanza dedicata alla cucina e quindi c'è proprio una sala vera e propria. A casa mi accusano di averla occupata con una fantastica chiocciola della Cracking Art. Non so se hai in mente, avete in mente quelle... Una chiocciola della Cracking Art. Cracking Art, non so se hai in mente quelle chiocciole di plastica, si sono state anche a Milano in Duomo. Ah sì, che lo conosco. Sai quei chioccioloni? Ah sì, ho capito, capito. Sì. Vabbè, insomma, le piacciono anche le cose di design. Devo dire belle, che deve essere abbastanza grande quella sala. Sì, non... sì, no, è abbastanza grande. Abita appunto... in una piazza d'armi, come si dice. Più o meno, in realtà non troppo, perché ripeto, poi quando siamo tutti in famiglia, ringraziando il cielo, tutti insieme anche divertendoci, poi siamo in sette, quindi con tre ragazzoni. La domanda quindi, Massimiliano? La domanda è: ci sono dei trucchi per trovare spazio dove lo spazio non c'è, considerato che quando non stanno volare? Tutti lì? Esatto. Allora, Massimiliano, grazie. Vabbè, da quello che abbiamo capito, casa grande, arredata già in un certo tipo, molto occupata, molto frequentata, molto affollata di solito. Allora, guardi, Massimiliano, i trucchi sono quelli di utilizzare dei mobili trasformisti, ovvero mobili trasformisti e contenitori, nel senso, se magari non abbiamo tanto spazio per mettere delle gran credenze, del mobilio che possa contenere degli oggetti, utilizziamo ad esempio dei divani contenitori. Sì. Che possono in qualche modo liberare un po' di spazio, togliendo quindi del mobilio in più, però senza toglierci la possibilità di avere un contenimento. Oppure, ad esempio, per quanto riguarda il tavolo, scegliamolo tutto al più allungabile, quindi non prendiamolo enorme subito, anche se siamo in tanti, ma prendiamolo allungabile in modo che nel momento in cui non lo utilizziamo possiamo richiuderlo e la stanza è decisamente più vivibile a livello di movimenti. Benissimo. Certo. Allora, speriamo di aver accontentato Massimiliano. Se vuole ci scriva magari in privato, mandandoci una foto di questa stanza, quindi certo. Curioseremo e le daremo appunto qualche indicazione pratica. Intanto abbiamo avuto anche il tempo, allora, siccome questi saloni generalmente, questo di questa settimana del mobile, il prossimo del risparmio, saranno anche animati da iniziative speciali con degli ospiti particolari in ogni evento, è successo anche naturalmente a questo salone del mobile, e allora sentite un po' noi che abbiamo disturbato questa mattina, vediamo se da questa sigletta i nostri ascoltatori lo riconoscono. Allora, è la sigla famosissima di un programma di grandissimo successo. Chef Rubio, buongiorno. Buongiorno ragazze. Buongiorno. Bravo ragazze, mi piace. Già è partito subito col piede bravo, giusto questo ragazzo. Bravo. No, guarda, poi mi viene da parlare in marchigiano, anche se lui non è marchigiano, però insomma lo riconosco molto in questo dialetto. Chef Rubio è protagonista in questi giorni di un po' di laboratori di food design, si chiamano gli Origami Italiani, è il tuo nuovo progetto, Rubio, tra cibo e design, realizzato in collaborazione con il designer Filippo Protasoni. Ma io prima di tutto voglio curiosare nella tua cucina di Frascati, ce l'hai lì o... Non ho una cucina. A parte quella portatile che ti porti in giro per tutta Italia, non ho una casa, quindi ecco, niente. Vado per case altrui e alberghi, quindi dove trovo mi accascio. No, perché la mia curiosità sarebbe stata, insomma, magari come era organizzata e attrezzata, visto che tu mangi con le mani praticamente sempre. Beh, risparmio molto sulle posate, quindi... ecco. Senti Rubio, raccontaci un po' di questo progetto che hai portato qua a Milano in occasione in questi giorni di questo salone del mobile, ma nel caso in cui diventassi invece stanziale, invece che così nomade, ecco, l'idea di cucina e living quali sono? Non è stanziale, è un progetto che non serve a me, ma serve a tutte le persone che hanno un pastificio, un ristorante o una trattoria che fa della pasta fresca, perché con Filippo, che è un amico oltre che un collega in questa occasione, abbiamo realizzato quello che era un pensiero che mi portava avanti da 7 anni, che era appunto una sorta di tubo come quello dei designer, con all'interno una fila di pasta ripiena uno sopra l'altro, che poi dopo è stato sistemato in corso d'opera da appunto un designer professionista come Filippo, che mi ha corretto e ha tirato fuori sta genialata, che appunto questa sorta di grande post-it dietro la schiena del piano di lavoro, dove ci sono appunto le signore, le sciure che fanno la pasta all'uovo, la pasta fresca, e in base alle porzioni, al gusto, possono strappare questa sorta di grande post-it, piegarlo con pochissimi movimenti, quindi senza l'ausilio di nessuna colla. e far entrare 5, 15, 20, 25, insomma quanti tortelli si vogliono all'interno. Ah, proprio il contenitore subito. Perfetto. Per la pasta fredda. Sì, con cui anche versarlo direttamente in pentola. Questa è una sorta di aiuto che vorrei, che avevo pensato per dare un supporto anche alle piccole imprese che magari hanno una poca visibilità e hanno poca possibilità di promuoversi, così non hanno bisogno di far altro che appendere questa sorta di post-it, e una volta che qualcuno viene dentro al loro negozio, nel loro ristorante, se si vuole portare via una porzione di pasta il fresca, cartoccio, proprio un cartoccino con gli origami, sì, di chef Rubio e designer Filippo. Il cartoccio è un po' sminuente, però va bene. No, va bene, con tutto il rispetto, sì, naturalmente, no. Chef, grazie. Quindi l'idea era semplicemente quella di avere questo packaging che potete hai capito, insomma, questi tuoi giri anche per la cucina italiana, che poi ti fanno ritornare verso casa con delle idee anche molto concrete. Rubio, senti, noi ieri abbiamo fatto una puntata speciale, Nicoletta, sulla carbonara. Ce la vogliamo far regalare la ricetta di chef Rubio oppure no? Nicoletta, che dici? Tu lo sappiamo che probabilmente, oltre alla tradizione, diciamo, forse fai poca innovazione su questo piatto, però 30 secondi della tua versione? Ma non c'è nessuna versione, perché alla fine si creano, siamo fantastici noi nel creare la nostra ricetta, e poi alla fine ognuno fa con chi col guanciale, chi con la pancetta, chi con solo tuorli, chi con tuorli albumi, chi con la panna. Insomma, alla fine l'importante è che la gente sia felice e non rimanga delusa dalla qualità della materia prima. Poi che è la cosa più importante. Qui a Milano la mangiano meno al dente che a Roma, mi frega il giusto. È sempre lui. Che peccato, perché più al dente è, più basso è l'indice glicemico. E vabbè, ma gli dobbiamo dire tu. Grazie Rubio. Vieni ciao, a trovarci spesso. Vieni a trovarci, anzi no, spesso. Vieni a trovarci magari qua in studio. Intanto abbiamo il traffico, a tra poco. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero. Fidati di un esperto. Vi presenta. Cuore e denari. Take me back, I've been away too long. Take me back to my home, sweet home. La radio è di casa. Gli ultimi minuti di tempo dedicati alla nostra trasmissione di questa mattina in occasione del Salone del Mobile, abbiamo riproposto ai nostri ascoltatori la rubrica La Radio di Casa, e quindi arrediamola con l'architetto Rita Campana. Oggi ci stiamo soffermando su un ambiente che amiamo molto, il living, la zona giorno, la sala, chiamatela come volete. Foto meravigliose delle vostre case, quelle che ci stanno arrivando, magari faremo la carrellata, poi la solita carrellata appunto di foto per il nostro profilo Facebook, il nostro profilo appunto sul sito di Radio 24. Intanto siamo in diretta Facebook, e noi l'abbiamo ricordato, e potete vedere in tutta la sua bellezza anche il nostro architetto, oltre che la nostra, ovviamente. Mario, ma adesso Filippo dice bene, infatti lei, ma Filippo basta. Filippo così da domani a frantumare la nostra autostima. Da lunedì non è più il nostro regista. Io non lo voglio più. Torniamo, non voglio guardarlo. Che torni Carmelo. Mario da Verona, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e buongiorno allo studio, eccezionale questa trasmissione, complimenti. Grazie, vada. Appassionante. Senta, io volevo soltanto rappresentare questo, diciamo che ultimamente da qualche anno sto facendo quasi una specie di collezione di oggetti, di design, ma probabilmente di altri tempi, o comunque quelle che chiamano, secondo me molto riduttivamente, vintage, e quindi in casa... la regina della sala, appunto, del living, per me rimane quella poltrona che ci ho messo un po' di anni per comprarla perché costava un bel po', ed è la P56 di Gaetano Pesce per B&B Italia, e quindi rossa, fuoco, ed è lì, guardi, una reliquia che non so neanche mai si raccoglie sopra. In preghiera lì davanti tutte le mattine. Mario, tanta roba, Mario, grazie. No, perché questa sua considerazione ci dà modo di fare quella che facevamo con Nicoletta a microfoni spenti. Magari il budget a disposizione non è granché, perché facciamo sempre a lotta con il nostro portafoglio, poi però così arredandola anche nella semplicità e nel risparmio, in un'ottica appunto di contenimento di costi, magari decidiamo ad un certo punto di regalarci un bel pezzo che dia personalità a questa stanza. In questo caso, vabbè, Mario dice che ne ha un po' di oggettini carini, ammettendo di poterne comprare solo uno. Lei su cosa punterebbe, architetto? Chiaro che dipende dalla stanza, certo, dal nostro gusto. Infatti in realtà non c'è un vero e proprio oggetto su cui puntare. L'importante è che questo oggetto venga inserito bene all'interno del resto dell'arredo, quindi non sembri, non deve essere nello stesso piazzato stile. Piazzato lì per forza solo perché fa fico che abbiamo, certo, speso un sacco, infatti, di soldi per che quella non cosa significa là, che deve essere nello stesso stile, ma che semplicemente deve essere integrato in modo armonioso. Quindi può essere un tavolo, una bellissima lampada, il divano, una bella libreria. Non ha importanza il tipo di oggetto, ma importa l'armoniosità che ha l'intero ambiente e che questo oggetto spicchi effettivamente su tutto il resto. Mm-hmm. Allora, Casa Sua Nicoletta dice: per carità le tende, io invece le ho, ovviamente non ho quelle tutte pompose, ma ho un lino proprio che scende giù, sì, a piombo. Lei le mette, le consiglia ai suoi clienti? Io le consiglio per un discorso di gestione dell'illuminazione interna, perché avere delle tende soprattutto regolabili, quindi magari delle tende a pacchetto, delle tende scorrevoli, cioè quindi qualcosa che possiamo anche gestire in modo rapido e veloce, ci permette di controllare al meglio la quantità di luce che vogliamo all'interno della stanza. Perché l'illuminazione è pure un altro fattore, sì, attorno a cui ruotano poi le scelte dell'architetto nella, certo, disposizione dell'arredamento. Quanto conta quell'aspetto? L'illuminazione è importantissima, perché avere un soggiorno, una zona giorno, ma come anche altre stanze, luminoso, chiaramente ci dà un'idea di comfort, di benessere che un ambiente buio fa. Fa tutt'altro proprio. Tra l'altro Mario da Verona ci ha raccontato della sua poltrona, dei suoi pezzi vintage. In realtà la domanda di partenza era: le tende secondo noi sono la parte più importante della zona living, e poi non l'ha detto, ma nelle anticipazioni appunto delle nostre colleghe del centralino avevo questa. Allora abbiamo detto del tavolo da pranzo, il posizionamento della TV, che temi ci mancano in questi ultimi 2 minuti di tempo tra tutte le cose che potrebbero essere dette su questo argomento che è potenzialmente infinito. Architetto, sì, potremmo parlarne veramente per ore e per giorni. Tema materiali, per ecco, colori e materiali. Allora, colori e materiali sono importantissimi, perché ovviamente ci daranno quella che sarà l'atmosfera generale dell'ambiente, che quindi sarà quello che diremo immediatamente anche chi entra, cioè parlerà di noi questo tipo di atmosfera, quindi è importantissima la scelta. Perciò se vogliamo un ambiente luminoso, ad esempio, rimaniamo su colori tenui, quindi bianco, tonalità dei grigi, che comunque caldi, sono freddi, in questo periodo sono i molto attuali, gettonati, effettivamente. Diciamo, il ciliegione scuro è un po' passato. Il mogano non vanno esatto, più di moda, ecco, no, direi. E tra l'altro questo tipo di tonalità permetterà anche di far sembrare l'ambiente più spazioso e di poter abbinare qualsiasi stile di arredamento, poi, perché è quasi una tela neutra. Se invece amiamo un pochino di più i contrasti, possiamo utilizzare magari alle pareti un colore chiaro, pavimenti oscuro o viceversa, oppure utilizzare il classico bianco e nero. Per chi invece un pochino più estroso vuole dedicarsi al colore, ad esempio il colore di quest'anno di Pantone, che è un'azienda statunitense che si occupa appunto di catalogazione dei colori di grafica, che è diventato uno standard. E ogni anno propone il colore dell'anno, che è quasi un evento mediatico, insomma. Davvero? Sì, sì, sì. Quest'anno è il greenery, che è un tipo di verde con una punta di giallo, un colore molto fresco e frizzante, che quindi può essere interessante da utilizzare in casa. L'ha già fatto una sperimentazione di greenery, sì, in qualche sperimentato, casa? Sì, ho sperimentato. E com'è, com'è venuto è fuori? È molto bello, però quello che voglio dire agli ascoltatori è: attenzione alla scelta del colore, a decidere di un colore anche acceso, perché al contrario dei toni neutri ci si stanca in fretta, quindi bisogna essere ben sicuri e ben convinti di quello che ma si sta scegliendo. Ma devo dirle che me l'avevano detto anche a me, io ho 3 o 4 colori in casa, sì, e a me devo dire che ancora non è successo, no, dopo una ristrutturazione di 5 anni fa devo dire che sono molto contenta e certo, mi scalda ancora insomma il cuore la scelta fatta, e non mi viene anzi assolutamente in mente di dire perché non ho fatto tutto bianco, sì, no sì, sono sì, proprio sì, contenta. Poi dipende chiaramente anche da tante cose. Allora abbiamo terminato, Rita, grazie per essere grazie ritornata con noi. La prossima grazie casa faremo il bagno fra un mesetto, volentieri, d'accordo, e cominceremo a fare anche il bagno al mare magari a maggio, e quindi ci abbiniamo anche quello della la battutona. Grazie a tutti, torniamo buon lunedì weekend. Buon grazie weekend. Grazie.